L'orizzonte degli studi sulla cultura italiana ed europea del 400 è profondamente mutato in questi ultimi decenni per gli scopi e gli strumenti impiegati nella ricerca. Ma ancor più radicalmente trasformato e rinnovato è il quadro entro cui collocare la figura di Lorenzo Valla. L'umanista anticlericale, il seguace di Epicuro e di Lucrezio, il precursore del positivismo e del naturalismo moderno, il blasfemo accusatore di frati e di papi, secondo l'immagine quasi caricaturale delineata dal Pastor nella sua Storia dei Papi. La complessa vicenda culturale di Lorenzo Valla, che vede il filologo al centro di una fitta rete di relazioni nell'Italia e nell'Europa del Quattrocento, e che si colloca come espressione di una acuta e autentica coscienza dell'umanesimo, si presenta oggi priva di mistificazioni, difficile da imbrigliare e costringere entro schemi rigidi e precostituiti, e risulta finalmente liberata dalla congerie di letture dogmatiche che l'avevano distorta. Ciò grazie ad un mirato progetto editoriale degli scritti e alla convergenza di studi e ricerche sulla loro fortuna e circolazione. Colui che la Donazio Constantini sembrava aver fatto il campione delle battaglie contro le pretese temporali della Chiesa e il De Voluptate, il paladino del riscatto della felicità in terra e in cielo, risulta pure un grande e sincero assertore della Milizia Christi. E la energica e integrale riforma del sapere umano da lui disegnata e in parte realizzata passa ora attraverso la via poco appariscente della discussione delle parole. Il grammatico, il retore, il difensore e restauratore della lingua latina si è svelato logico, metafisico, critico sottile della scolastica medievale e di non pochi aspetti di quella medesima antichità che gli umanisti andavano riscoprendo. Anche i suoi scritti, alla luce dei nuovi dati, di una lettura più attenta e articolata dei documenti già acquisiti e di un recupero rigoroso delle vicende testuali, guadagnano spessore nella loro qualità di testimonianza storica e letteraria e risultano sempre più intricati nell'iter seguito nella loro composizione. Emerge quasi come una consuetudine il fatto che l'autore sottopose i suoi scritti, anche quelli a noi scarsamente testimoniati, a più revisioni, dettate sì da esigenze scientifico-filologiche, dall'allargarsi degli orizzonti conoscitivi, dall'accrescersi delle letture e delle scoperte, dall'opportuna selezione delle auctoritates, ma spesso suggerite anche da opportunità pratiche. Così avvenne per il primo scritto a noi pervenuto, il De vero falsoque buono, per le dialettice disputationes, stese completamente e poi rimaneggiate a tal punto che tra la prima e la terza redazione numerosi sono gli arricchimenti della documentazione, le risposte più o meno esplicite a obiezioni, le attenuazioni prudenziali delle punte polemiche troppo audaci. Così pure per quella che è definita la magna carta dell'umanesimo, le eleganze. Le nuove edizioni critiche e soprattutto nuovi studi puntuali condotti a margine ed estesi a persone e ambienti con cui il Valla aveva frequenti contatti consentono ora di sorprendere il suo impegno costante e la sua tenace determinazione a strutturare il nuovo sistema del sapere e a renderlo attraverso lo studio dei termini, la loro analisi e la loro storicizzazione anche in scritti cosiddetti minori. È il caso delle ad notationes ad novum testamentum, legate come si sa alla scoperta del manoscritto da parte di Erasmo nel 1504 nella biblioteca dell'abbazia premonstratense di Parc nei pressi di Lovagno e da lui pubblicate nell'anno successivo. e che risultano completamente diverse nella loro stesura dalla Collatio Novi Testamenti ritrovata ed edita recentemente da Alessandro Perosa. È questa sicuramente ormai la prima redazione di quello scritto che manifesta la dimensione teologica dell'umanesimo valiano, il suo contributo decisivo all'esegesi scritturistica e che si colloca come discriminante nella storia dell'esegesi biblica tra la fine del 1300 e l'inizio del 500, tra le postille perpetue in Universa Biblia di Nicolaus de Lira e il lavoro filologico di Erasmo. Ma il vero e profondo significato teologico del contributo valiano, l'uso della filologia come propedeutica alla teologia, si coglie solo se ad notationes e collatio vengono considerate in rapporto alle altre opere, in particolare alle eleganze, alle dialettici disputationes. Se sono inoltre collocate nel particolare immediato contesto culturale quale ci viene indicato dalla polemica con Poggio Bracciolini, ampiamente documentata negli Antidota in Pogium, e se si leggono alla luce dell'indirizzo e della metodologia derivati al Valla dalla riscoperta di Quintiliano e applicati criticamente pure nei confronti della teologia contemporanea. Il teologo per lui non può non essere il filologo della scrittura, anche se ciò non esaurisce né i suoi compiti né gli elementi base ai fini della elaborazione scientifica della propria disciplina. D'altra parte, la scrittura non può non essere sottoposta agli strumenti scientifici e ai criteri razionali che l'ars grammatica, quella quintilianea, imponeva per una lettura adeguata e sufficientemente comprensiva di un testo. Così, la emendata lectio, già assurta in Valla a dimensioni e livelli di rottura con la cultura tradizionale, è applicata anche alla Sacra Scrittura. Come nel caso dei classici pagani, per lui in particolare Livio, o di un qualsiasi altro documento, la Donazione di Costantino, si era rivelato di grande efficacia lo studio capace di far giungere ad una lectio del testo originale quanto mai precisa nell'ortografia e nella punteggiatura, e a una emendatio che stabilisse, tramite un'accurata critica testuale e una continua ricerca di codici, l'autenticità di una auctoritas letteraria o storica, così ora l'insieme degli strumenti filologici doveva portare a determinare l'autenticità originale dell'auctoritas della Sacra Scrittura, quale manifestazione letteraria della parola di Dio. Si comprende in questo modo perché il compito precipuo assuntosi dal Valla, prima di sottoporre ad una analisi critica la traduzione della Vulgata, fosse di stabilire nel modo più attendibile il testo, sia della versione latina, sia di quella greca, quest'ultima in quanto testo originale. La ricerca e la collazione dei vari codici latini o greci rimanevano perciò il suo naturale punto di partenza e la sua continua preoccupazione, soprattutto là dove la pericope biblica era più difficile e controversa. Si nota perciò che nella collatio, cioè la prima stesura, il Valla rimanda sempre a un numero indefinito di manoscritti, plerique codices. Nelle annotationes, invece, dove la tecnica e l'erudizione si sono fortemente sviluppate ed ampliate, le indicazioni diventano più sistematiche e precise. Egli segue nel suo lavoro una serie di codici base, ma il loro numero varia a secondo i casi, come afferma ripetutamente Matteo 27, tres codices latinos e altrettanti grecos abeo. Però quando si trova a dover controllare un testo, posso anche consultare alios codices. Cerco di leggere soprattutto quelli greci. E poco più avanti, Matteo 28:8-9, a proposito delle pie donne che uscirono in fretta dal sepolcro, nescio an interpretis an librari primo allucinati sint oculi. Nam statim sequitur, quod in quatuor quasi spexico dicibus, non in veni latine, quod legi in quattuor grecis. Altre volte arriva addirittura a Septem Graeca Exemplaria, leggi, in cui trovo scritto. Però mancano anche delle parole, questo a proposito appunto di Giovanni 7, 29, 30. Manca un'espressione che è assente da tutti gli esemplari greci, ma anche da alcuni latini, ed è l'espressione ergo non hoc loco sed posteri sunt illa verba. In altre occasioni il numero dei codici rimane imprecisato, mentre i vari gruppi di manoscritti vengono qualificati secondo una valutazione di critica testuale. Giovanni 14, 24. Et sermonem quem audistis non est meus. A stipulator, dice il Valla, opinione me, quod aliquot vetustos codices legi, in quibus scriptum est sermo, non sermonem, cae o logos ut Grece abetur. Talvolta l'insistenza per tale ricerca di codici di critica testuale si fa ancora più evidente in luoghi scritturistici dove un insieme di difficoltà e interpretazioni controverse, oppure la stessa importanza del passo, rendono l'esegesi particolarmente difficile e delicata. Così il Valla si accorge della problematica riguardante la dossologia finale dell'Epistola ai Romani, che egli ritrova solamente in rarissimi codici greci. A Giovanni 6,45, et erunt omnes docibiles Dei, Valla amplia man mano le sue ricerche sul termine docibiles, sia nella sua forma latina che in quella greca, dalle eleganze alla prima stesura della collatio, sino all'edizione delle annotaciones, dove sempre commentando questo versetto giovanneo convergono collazioni di codici greci e latini, concordanze con luoghi paralleli, riferimento a Prisciano, a Omero, richiami all'esegesi di Cipriano e di Girolamo. Un caso tipico del metodo valliano si ha a proposito di Giovanni 18,28. Adducunt igitur Iesum ad Caifam in Praetorium, versione allora corrente che andava corretta in A Caifa in Praetorium. Il Valla aveva discusso il testo nella prima stesura, intorno al 1443 della Collatio, in base ad argomentazioni storiche oltre che testuali, e come egli stesso scriverà più tardi, si era semplicemente limitato a indicare il testo corrotto della Vulgata. Nell'Antidotum Secundum, siamo 1453, il Valla fa notare a Poggio Bracciolini di non aver proposto per primo la difficoltà del passo giovanneo. L'aveva affrontata e risolta già Ciriaco d'Ancona, il quale aveva trovato in Lombardia quattro esemplari che presentavano la redazione corretta. Gli ricordava inoltre che Giovanni da Tivoli, domenicano, maestro in grammatica, aveva trovato un altro codice emendato in tal senso. E infine gli faceva presente che anche lo stesso Papa Eugenio IV, mosso dal parere di molti studiosi, aveva accettato quell'emendamento. Nelle Annotationes, ultima stesura, siamo 1453-1457, il Valla, trattando ancora una volta tutta la questione testuale, aggiunge: a proposito di questo passo, Agostino è in errore, contra veritatem Evangelii. E perché? Perché non è in grado di consultare la fonte greca. Però doveva essere in grado di conoscere quello che in per molti codices latini si può trovare. E allora elenca e parla di nuovo di Ciriaco e di nuovo anche dei due codici trovati da Giovanni da Tivoli. È qui manifestamente dichiarata dal Valla la propria riserva anche nei confronti di Agostino, cui aggiungerà San Tommaso, perché questi pretendono di fare teologia nell'incultura linguistica. Il secondo poi, sebbene ignaro di greco, ebbe l'ardire di commentare le lettere di Paolo, scritte in greco. E poi continua Lorenzo, ci vengono a dire che lo stesso San Paolo in sogno avesse testimoniato che nessuno lo aveva capito meglio di Tommaso. Ad Agostino poi contesta pure la ben nota affermazione contenuta nelle confessioni di aver trovato la concezione giovannea del Logos nei libri dei platonici. Osserva Valla, in quali libri platonici o di neoplatonici ha trovato la presentazione del Logos, quale abbiamo nel prologo di Giovanni. Egli avrebbe dovuto citare i luoghi o di Platone o degli autori platonici, poiché si tratta di argomento troppo importante per il cristiano. Gli esperti di greco non hanno trovato nulla nei platonici, mentre Agostino, poco esperto, ve l'ha trovato. Ne consegue che quando si tratta della scrittura in greco, ad Agostino, peraltro grande autore, manus autor, non si deve attribuire una grande autorità. È quello riferito un caso tipico in cui l'acribia filologica dà prova di sé. Raccolta graduale di materiale per la ricostruzione critica dei testi originali, versione latina e versione greca, della Sacra Scrittura, particolarmente del Nuovo Testamento, che copre tutto il periodo della sua attività letteraria, da Pavia a Napoli, soprattutto a Roma, dove l'impegno si fa più intenso, assiduo e vivace. Qui Lorenzo poteva avvalersi della propria ricerca e di quella altrui. Lui è insegnante allo studio, è praticamente assunto in curia e ha la possibilità dei rapporti soprattutto con il cardinale Bessarione e con quelli dell'entourage di Bessarione. Un metodo seguito nell'emendare, nello stabilire il testo originale, sia latino sia greco, che già Salvatore Garofalo descrisse nel suo intervento commemorativo sulla Bibbia e il Concilio di Trento tenuto all'Istituto Biblico di Roma nel centenario dell'Assise di Trento Tridentina e pubblicato in Biblica nel 1947. Cito da Garofalo: «Valla distingue varianti intenzionali, cioè correzioni arbitrarie derivanti o da incomprensioni del testo, da glosse esplicative, da correzioni che obbediscono a tendenze armonizzatrici, da varianti preterintenzionali causate da errori di lettura e di scrittura per lo scambio di lettere simili o omissioni». È un'ottica la sua che gli fece dire: Lorenzo ha rosicchiato la corteccia del testo biblico, Tommaso ne ha addentato e gustato il frutto. Ottica oggi ampiamente superata non solo dalla scoperta della prima redazione della Collatio con la sua prefazione, ma soprattutto da una lettura più corretta ed adeguata di tutta l'opera valliana. Ai fini della ricostruzione del testo critico, il Valla mette in atto in modo coerente e costante i criteri dell'Ars Grammatica, auctoritas consuetudo, etimologia e analogia, i primi quali criteri storici, i secondi quali criteri metodici, sempre secondo la terminologia quintilianea. Non manca di ricorrere ad altri autori ecclesiastici per ritrovarvi tracce di una versione latina più primitiva o un testo più corretto. Per quello latino e spesso anche per quello greco rimane fondamentale l'appoggio agli scritti di Girolamo, che in diverse occasioni gli offre la possibilità di puntualizzare il fatto che la Vulgata non poteva considerarsi una traduzione, quanto piuttosto una semplice revisione da parte del Dalmata, fatta naturalmente su una versione già esistente, che spesso lo stesso revisore aveva lasciato intatta. Così, ad esempio, a Luca 16:2, redde rationem villicationis tue. Dopo aver collegato il termine latino con quello greco, oikonomia, afferma: non fuisse Hieronymum qui novum testamentum ita interpretatus est. Vel inc patet quod ad algasia maliter unc locum transfert. Inquens redde rationem dispensationis tue. Con una scelta, afferma Valla, lessicale migliore, perché dispensator è migliore di villicus. Oppure a 1 Corinti 2:9. Interpres non animadvertit verbum grecum, etsi numeri singularis, tamen fuisse transferendum pluraliter, ut facit Hieronymus in epistola super pentateucum. Ut appareat, aut non esse unc interpretem Hieronymum, aut eius interpretationem fuisse corruptam. È evidente che in questa seconda stesura del suo lavoro la preoccupazione di disgiungere la Vulgata dall'autorità di Gerolamo diventa preminente in seguito alla polemica con Poggio. La critica all'antica versione latina e la volontà di una ritraduzione del Nuovo Testamento non intaccano affatto l'autorità del grande dottore della Chiesa. Valla non rifugge dall'unire a valutazioni di carattere grammaticale e sintattico presupposti tipicamente teologici. Significativa è la lunga annotazione a Matteo 11:23, perché se in Sodoma fossero avvenuti i miracoli operati in te, oggi ancora sussisterebbe, si ferma soprattutto sul forte mansissent, che traduce lemenen an ad anche diem del greco. Sembra in realtà, dice Valla, non conveniente introdurre in un parlare divino quell'avverbio dubitativo, quasi che Dio non sappia che cosa sarebbe accaduto a Sodoma se in questa città fossero stati operati tali prodigi. E che quell'avverbio non era da aggiungersi, lo dico, non tanto perché sia secondo Prisciano che secondo altri grammatici presso i greci l'indicativo preterito con quella sillaba o congiunzione avverbiale, an con l'indicativo oristo, ha il valore del nostro congiuntivo, ma perché citerò come testimonianza lo stesso traduttore che aveva reso il versetto precedente senza quell'avverbio. I due luoghi sono infatti espressi nello stesso modo. Ma avanti continua. Mai infatti Cristo, parlando di sé o del Padre, ha usato l'avverbio forte, se non quando si esprime in terza persona. L'aver applicato, o meglio, esteso alla Sacra Scrittura l'esegesi grammaticale della inarratio, riguardante il contenuto di un testo, e l'analisi del vocabolario, della composizione, del fraseggio, costituisce il secondo elemento specifico, accanto alla ricerca del testo critico, del lavoro filologico valliano, che opera in questo modo una rottura con l'esegesi propriamente scolastica, rappresentata per il Valla soprattutto da Tommaso d'Aquino, esegesi che si avvaleva della tecnica della divisio o partizio dell'insieme di un testo, prima di giungere al particolare letterale, e dove l'importanza della questio teologica diventava preminente in rapporto alla preoccupazione strettamente filologica. In alcuni casi l'umanista si sofferma a lungo su brani particolari, non solo per le difficoltà emergenti soprattutto dalla lettura del testo, ma anche per insistere su specifiche questioni dogmatiche derivanti direttamente dall'interpretazione esegetica, come quella per la nascita di Cristo e la verginità di Maria. Qui il lavoro filologico scritturistico, la critica testuale, il rifacimento della versione latina, il commento vero e proprio raggiungono una composizione completa e definitiva. Confluiscono qui la critica della Vulgata, le polemiche nei confronti di Tommaso non espressamente nominato e di altri esegeti latini sviati dal testo corrente nelle loro deduzioni teologiche, che perdevano le loro premesse scritturistiche qualora si fosse conosciuto il testo originale. Il richiamarsi ai modi di dire in uso corrente nella lingua latina, il confronto tra il testo biblico e i classici, sia latini sia greci, oltre il ricorso alla patristica e particolarmente a Girolamo. E proprio a proposito di Matteo 1:18, antequam convenirent in venta est in utero habens de Spiritu Santo, osserva che non si può concludere da antequam convenirent che dopo ciò Maria e Giuseppe ebbero dei rapporti coniugali, e dimostra attraverso citazioni da Virgilio, Cicerone, Usa Tucidide, perché Usa Tucidide, uso una fonte greca, ut greca sunt evangelii verba, che antequam può introdurre un fatto interamente irreale. Ob ida autem quod dicitur, priusquam convenirent, non sequi ut postea convenerent. Probat copiosissime Hieronymus adversus Elvidium. E là, dove non c'è Gerolamo, ricorrerò, dice Valla, anche ai testi non sacri, dai quali io potrò trarre veramente numerosi esempi. E il caso si ripete al versetto immediatamente successivo, cum nollet traducere eam, dove, criticato il fatto che l'interpres non ha capito il significato di paradigmatisei, dichiara quanto egli intende. Eam ad populum traducere exemplo alis futuram, o meglio dice facere exemplum. E cita questa volta a favore dell'interpretazione corrente Platone, Gorgia, Demostene, Terenzio, Petronio Arbitro. Ma proprio a proposito di questo dettagliato commento, al versetto 18, al Valla è stata attribuita la negazione della verginità di Maria, mentre egli ammette non solo la virginitas post partum, ma anche, e viene detto espressamente, quella in partum. Ma al Valla purtroppo si attribuiscono tanti elementi, diciamo, eretici, e in effetti invece non esistono leggendo il testo. Il suo impegno è riportare la versione latina della scrittura il più possibile fedele e autentica in rapporto all'originale greco, proporre quindi una vera e propria ritraduzione del Nuovo Testamento, coinvolgendo il rapporto tra lingua greca e lingua latina. Il Valla non è sempre negativo nei confronti del traduttore della Vulgata, anzi, talvolta approva la versione proposta e la conferma con testimonianze desunte dai classici latini. Tuttavia, nella maggior parte dei casi la critica è piuttosto severa. Egli rimprovera l'anonimo interpres la mancanza di metodo e di criteri costanti nel tradurre. Manifesta continuamente il proprio fastidio nel notare come espressioni e parole che nel testo originale ricorrono identiche siano invece rese in latino in modo vario e diverso e senza alcuna giustificazione. Accusa inoltre il traduttore di ignorare le molteplici variazioni morfologiche, sintattiche e stilistiche esistenti tra le due lingue, di aver attuato più una traslitterazione che una vera traduzione, di giocare col testo originale, ludere in re gravissima, e di rendersi quindi colpevole di aver frequentemente sviato e portato i commentatori latini proprio in forza delle ambiguità della sua traduzione a indebite conclusioni. E se c'è una parte della Vulgata dove Valla rivela una certa aggressività critica è nei confronti della versione delle Epistole di Paolo, dove vede compromessi la lingua e lo stile che egli ammira illimitatamente dell'Apostolo, considerato alla stregua dei grandi classici greci. Perciò, a chi rimprovera l'Apostolo di non curarsi della proprietà del linguaggio, ribatte seccamente: «Questo fai perché tu non ti preoccupi della proprietà del linguaggio, tu che non hai la possibilità di accedere alla fonte greca, lingua nella quale Paolo si è espresso e per la quale è superiore addirittura a Demostene». E Valla non si limita alle solite osservazioni riguardanti le incomprensioni testuali, multum hoc differta greca veritate, né a mettere in risalto una versione che per eccesso o difetto manca di aderenza al testo originale, ma approfondisce ed estende la sua critica fino a contestare al traduttore la perdita di tutta la ricchezza stilistica ed elaborazione retorica dell'Apostolo. Per Valla Paolo non è solo l'oratore per eccellenza, ma il retore, che replica in ambito teologico la polemica antifilosofica che un tempo era stata di Socrate e che poi verrà ripresa da Quintiliano. Per lui Paolo è il retore cristiano che fonda la nuova istituzio teologica, compresa e quindi consapevolmente assimilata dai maggiori padri latini e greci. Egli, come opportunamente ha illustrato Salvatore Camporeale, è modello di stile e di metodo per la scrittura teologica, quello che è il più dicendi peritus del Collegio Apostolico che annunciò in modo sublime il Verbum Dei al mondo ellenistico. E Paolo è figura centrale in tutta l'analisi, soprattutto valliana, e la proposta del motivo della Caritas. Dalla critica di Poggio Bracciolini proviene l'idea distorta di un Valla presuntuoso, perennemente sarcastico e ipercritico, tutto dedito a quisquilie linguistiche che ha raggiunto l'estremo limite di perversione intellettuale e morale con le ad notationes, sottoponendo la versione latina delle Sacre Scritture alla disamina filologica, riproponendo il primato assoluto del testo greco neotestamentario come fonte della rivelazione, operando in questo modo una riduzione della Vulgata geronimiana alla veritas greca originaria. Così facendo il Valla toglieva per il suo acerrimo nemico la validità e autenticità, relativizzando il significato a quel testo latino scritturistico che era stato fonte privilegiata del linguaggio teologico e prima ancora del linguaggio dommatico e liturgico della Chiesa occidentale. Nella Collazio la preoccupazione preminente era stata l'emendazione del testo della Vulgata e solo marginalmente gli interessi del Valla si erano estesi alla revisione della traduzione latina qualora ragioni stilistiche o di fedeltà al testo originale greco lo richiedessero. Nelle annotazioni, invece, gli scopi principali diventano la traduzione quasi ex novo del testo originale e la conseguente ricerca della versione autentica di quest'ultimo, sempre nell'ambito del Nuovo Testamento. E il presupposto teologico a questo lavoro esegetico è l'ispirazione della scrittura quale espressione letteraria della parola di Dio. Nel controbattere le accuse che Poggio gli lanciava, il Valla affermava espressamente questo presupposto teologico e in modo rendeva anche per il futuro totalmente ingiustificato quanto una certa storiografia, incapace di comprendere le specifiche dimensioni del rapporto tra fede e cultura, in cui per lo stesso Valla consisteva l'autentico sviluppo della scienza teologica, ha preteso di attribuirgli l'accusa di profanazione razionalistica nei confronti della scrittura. La Collazio non vuole essere una ipercritica negativa o di rigetto dell'opera di Girolamo, quanto piuttosto un contributo positivo ad una lettura più corretta ed esatta del testo biblico tradizionale. Una edizione critica del Textus Receptus del Nuovo Testamento nella versione della Vulgata. Denominazione questa, ecco, volevo sottolineare, che in Valla non ricorre mai, perché il termine Vulgata è usato nel XVI secolo con le Lefebvre di Table. C'è sempre il termine interpres. Il Valla si preoccupa, nel difendersi dalle imputazioni del Bracciolini, di situare il suo lavoro entro una specifica e autentica prospettiva storica rispetto al passato. Pone in diretta relazione la propria ricerca filologica con quella messa in atto da Girolamo nel IV secolo e ricorre nella propria apologia ad un testo classico, ab antiquo, e ben noto ai suoi contemporanei, cioè l'epistola a prefazione indirizzata a Papa Damaso e premessa da Girolamo alla revisione di una primitiva traduzione latina dei quattro Vangeli. E Girolamo affermava che il suo lavoro si era limitato ad una semplice revisione della traduzione, che egli si era preoccupato unicamente di correggere quei passi che sembravano alterare il senso, tralasciando immutato il resto, non omettendo di emendare il testo già dato. Compito questo, ingrato e complesso, perché di fatto si davano tanti esemplari quanti sono i codici o quasi. Il Valla dunque, che riprende testualmente questa parte dell'epistola geronimiana, intendeva riprendere e continuare il lavoro filologico di Girolamo. Riprenderlo perché la trasmissione manoscritta dei testi sacri, durata secoli, aveva riprodotto una situazione analoga, con pari alterazione della lettura originale. Continuarlo per ricontrollare la traduzione latina e renderla più fedele al testo greco, la vera fonte. Egli dunque si trovava non al di fuori dell'ortodossia, come pretendeva Poggio, ma piuttosto sulla scia della migliore tradizione ecclesiastica instaurata dal dottore della Chiesa. Di fronte alla dichiarazione di Poggio che neppure una virgola può essere mutata nelle scritture, risponde nell'antidotum che scrittura significa appunto retta interpretazione del testo, esatta versione, dato che è impossibile fare riferimento alle parole precise che Cristo e gli Apostoli pronunciarono. E chi voglia coglierne lo spirito dovrà arrivarci attraverso la forma migliore, a costo di cambiare alcune parole che non degli apostoli sono, ma di qualche non meglio identificato interprete, sulla cui cultura, dice Valla, è il caso di non discutere. Non si tratta di irriverenza. Se ogni traduzione dell'Antico e del Nuovo Testamento dovesse essere considerata scrittura, ci troveremmo di fronte a testi spesso assai diversi tra loro, e talvolta anche contrastanti e inconciliabili. E neppure si può fare ricorso a Girolamo, perché le versioni preesistenti che egli corresse, con maggiore riguardo ai significati che alle parole, sono ora nuovamente costellate di errori, tanto che è opera profondamente religiosa rivedere e correggere un testo, che solo dopo tale revisione potrà essere considerato parte della scrittura. A distanza di secoli si ripropone lo stesso problema. Cito ancora, se dopo soli 400 anni quel ruscello fluiva già così torbido dalla sorgente, non c'è da meravigliarsi se nuovamente, dopo 1000 anni, tanti infatti ne intercorrono da Girolamo ad oggi, ferma Valla, questo stesso ruscello, mal ripulito, trasporti con sé, almeno in parte, fango e sporcizia. Qualora si rispetti il senso, non è male mutare le parole. Ego autem, conclude il Valla, non de sententia evangelorum aiebam, sed de elegantia lingue latine. Ecco, vorrei sottolineare che qui il termine elegantia è, secondo il concetto valiano quintilianeo, di espressione, cioè coerente e appropriata, espressione univoca e funzionale alla chiarezza del pensiero. Cioè, quindi è un'accezione che non è l'eleganza intesa in una forma abbastanza superficiale. E tornando sull'argomento nel quarto libro dell'Antidotum, contro i nuovi attacchi di Poggio, che gli rimproverava non solo di credersi migliore traduttore di Girolamo, ma ancora di aver confidato ad un amico di avere in riserva frecce anche contro Cristo, etiam adversus Christus spicula reservasse, ribadirà di aver voluto correggere linguam non cor, sonum non sensum, verba non res. E inoltre, quanto agli strali, non avrebbe mai potuto usare l'improprio vocabolo latino spicula, bensì tela. E che il motto non aveva fondamento, poiché non esistono parole di Cristo che parlò in ebraico e nulla scrisse. At Christi verba nulla extant, quia ebraice locutus est, nec aliquid ipse scripsit. La sua, invece, è un'opera al servizio di Cristo, a vantaggio della religione cristiana, per la quale si era impegnato con altri scritti, e da tempo e a proprio rischio verrà sottoposto addirittura a Napoli nel 1444 a un processo inquisitoriale di eresia, per il quale dovrà proprio di scolpa scrivere una defensio, combattere le accuse di eresia rivolte e ancora successivamente mandare addirittura un'apologia ad Eugenio IV come, diciamo, testimonianza di verità e di sinceritas cristiana. Quando si traduce non è consentito lavorare con approssimazione, orecchiando il testo. La lingua ha le sue esigenze, che se possono apparire tiranniche a chi da questo è troppo lontano, in realtà non costituiscono il ritmo stesso del linguaggio, ed esse sole consentono un'esatta comprensione. La grammatica ha una sua autonomia e deve essere rispettata. Così a Giovanni 1,10, et mundus eum non coniovit, eum è riferito a logos greco, che in latino è stato reso con verbum, perciò dovrebbe essere richiamato con nillud, non con un eum. La cosa che lo indispettisce maggiormente è il fatto che in tanti anni nessuno si sia reso conto di questi errori e che spesso la deformazione del testo abbia dato luogo ad espressioni ridicole, quando non irriverenti. Per esempio, dove è detto che i magi entrarono nella casa, Matteo 2,11, è usato il participio entrantes, che fa pensare ad una irruzione. E ancora, nei due passi paralleli di Matteo 3,17 e Luca 3,23, 22, si dice che lo Spirito scende su Gesù sicut columba, invece di velut columba, che è espressione quindi priva di senso, e commenta con un certo tono ironico, si può dire ambulas sicut anser. E ancora nella nota sul nome persona, questo nell'Eleganzie 6,34, sottolinea che tale attributo di Dio è anche dell'animale, e che in linguaggio teatrale persona è la meretrice, non meno di una qualsiasi altra comparsa. Filologia non è però solo comprensione della struttura grammaticale nella quale si articola una lingua, è capacità attiva di intendere un testo, ed è valida solo in quanto quella lingua si è sostanziata con l'esperienza e la cultura del critico. Allora ogni parola ha il significato pregnante che tutta una tradizione le ha conferito. Spesso va alla nota che il latino non rende appieno il senso di parole ed espressioni greche. Vobis datum est nosse mysteria reni celorum, dice Matteo 13,11. Ma questa traduzione del greco ta mysteria non soddisfa il lettore, che preferirebbe forse un sacramenta, sebbene anche questo vocabolo sia insufficiente. Non basta ricorrere ad una parola o ad un endiadi o anche ad una perifrasi esplicativa. Chi legge, comprendendolo, il testo greco, ne intuisce il significato intraducibile e gli si affacciano alla mente tutti gli usi della parola e tutte le istituzioni che le hanno conferito quel particolare significato. E in questo caso, nei Misteria, il Valla non vuole procedere oltre nell'esame di quo disputare non nil alienum est ab hoc opere. Ma su questi termini tornerà la critica filologica di Erasmo con implicazioni e conseguenze notevoli per il sistema sacramentale della Chiesa. E più in generale si affronteranno concezioni teologiche o posizioni esegetiche differenti e in conflitto. Ecco, forse giova qui ricordare che il Valla riconosce al cristianesimo un suo statuto, diciamo così, espressivo particolare, dipendente dall'assoluta novità rispetto al mondo classico del messaggio trasmesso. E in questo senso insiste ripetutamente sulla necessità di coniare ex novo o assumere dal latino ecclesiastico i termini specifici atti ad indicare le nuove realtà o istituzioni della vita della Chiesa, oppure ribadisce l'importanza di trascegliere tra le varie accezioni possibili di un termine quella consona all'ambito religioso, spesso ben distante dall'accezione classica. Ed è tipica la discussione del termine della parola religio proprio nel De Professione Religiosorum, dove dice abbandono e lascio tutti i significati classici, riporto invece soltanto, per ricondurre all'originalità, i valori che sono invece dati dalle scritture. Valla critica la Vulgata, e questo significa più cose: stabilire il testo latino a partire dai manoscritti divergenti, fare la medesima operazione per il testo greco, quindi confrontare originale e traduzione, tre operazioni strettamente legate, poiché a volte è proprio la fonte greca che permette di scegliere tra le varianti ugualmente plausibili del latino. Valla inoltre mette in evidenza gli errori del traduttore: scorrettezze, solecismi, barbarismi, la mancata conoscenza della consuetudo, errori di interpretazioni, aggiunte, omissioni, ambiguità, oscurità, cioè tutto quello che riguarda il senso. A Luca 1,73-74, ius jurandum quod juravita ad Abraham patrem nostrum daturum se nobis. In greco non c'è se. La parola potrebbe essere stata aggiunta da chi spiega questo passaggio, che indica che Dio si darà a noi. Questo senso è però molto lontano dal testo greco. Se è l'interprete che ha compreso in questo modo, avrebbe dovuto, per evitare ogni ambiguità, porre il se davanti al verbo, se daturum nobis, sebbene in greco non ci sia un infinito futuro, bensì tudunai. Queste rettifiche del senso, che costituiscono la maggior parte delle annotazioni, non sono sempre confermate dalla filologia moderna, perché il Valla lavora con un esiguo numero di manoscritti greci, contro i quali la Vulgata, fedele ad un'altra tradizione, ha qualche volta ragione. Vi dico solo un caso: Luca 2,14, famoso gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Valla legge invece epiges eirene en anthropois eudochias, questo è il testo normale, lui legge epiges eirene en anthropois eudochia, come esprimente quindi un doppio voto, pace sulla terra e buona volontà nel cuore degli uomini. Valla propone quasi sempre la propria traduzione, che sostituisce quella criticata. Lo fa più raramente per la terza categoria di errore, che è di natura estetica, dove dice qua e là il traduttore non servavit grecam vetustatem. Valla, come abbiamo detto, utilizza per il suo lavoro e cita commentari anteriori. Girolamo, in prima linea, al quale si rifiuta di attribuire la traduzione del Nuovo Testamento. Quindi Agostino, Ambrogio, Crisostomo, Gregorio, Cipriano, Lattanzio, cioè qui ho ritrovato quello che, su cui si discuteva ieri, e si appoggia qua e là anche a quelli che egli chiama greci, non nome con il quale si deve intendere non solamente i padri della Chiesa greca, ma qualche volta anche i commentatori moderni, conosciuti dall'umanista nell'entourage di Vessarione, che lui chiama sic legunt greci nunc. Ci possiamo ora chiedere: alla base delle adnotaciones c'è un discorso teologico? Valla si difende dicendo che non è questo l'oggetto del suo lavoro, e spesso si arresta nello sviluppo del suo ragionamento quando arriva alle soglie della teologia, e lo dice espressamente. Lui, che nella prefazione al dialogo sui voti dei religiosi, il De Professione Religiosorum, aveva con orgoglio invitato i suoi accusatori a valutare le difficoltà della materia teologica che si apprestava a trattare e il modo con cui avrebbe proposta, stabilendo un confronto con altri verso i quali, come lascia intendere, egli sa di essere di gran lunga superiore. Tuttavia, è evidente che molto spesso la rettifica di un senso falso o di un senso controsenso ha una portata teologica, più o meno grande. A Corinti 1:15-10, dove la Vulgata traduce «Non ego autem set gratia dei mecum», Valla sottolinea che in greco c'è un relativo che bisogna rendere e propone «Non ego autem set gratia dei que est mecum», ma la precisazione è di notevole gravità. Sono io in collaborazione con la grazia di Dio, come implicherebbe la Vulgata letta e interpretata dai sostenitori della sinergia tra libero arbitrio e la grazia, o piuttosto è la sola grazia di Dio che mi accompagna? Ecco, premetto che questo è importante perché il Valla scrive un delibero arbitrio. Inoltre, Giovanni 21:22, quando si tratta dell'avvenire di Pietro e di Giovanni, «sic eum volo manere», è incoerente con il seguito. Significa infatti che Giovanni non morrà. Si deve invece leggere «si eum volo manere», e il passaggio da «si» a «sic» conduce ad un'assurdità teologica. E proprio su questo passo Bessarione si era pronunciato pubblicamente il 27 dicembre del 48 e vi aveva dedicato poi un ampio e dotto opuscolo di cui esistono redazione greca e redazione latina. Ancora una volta l'umanista romano dispiega compiutamente a livelli differenziati di ricerca da quello linguistico e filosofico a quello biblico, teologico, giuridico, ecclesiologico, la complessa strumentazione filologica e categoriale desunta dall'Istituzio Quintilianea. Ad essa abbina estrema libertà di giudizio, indipendenza di pensiero, ansia di rinnovamento, sorrette da una conoscenza vastissima e diretta del patrimonio culturale antico. Chiarito il rapporto tra l'interpres, il traduttore della Vulgata, e Girolamo, mi è sembrato opportuno, e chiedo scusa se rubo ancora un po' di tempo, opportuno e utile allargare la riflessione ai vincoli di simpatia e di affinità che legano Valla a Girolamo, che si colgono in tutti i suoi scritti e a vari livelli. Aspetti neppure sfiorati nel volume dedicato da Reis a Girolamo nel Rinascimento, ma che mi sono stati ampiamente confermati dalle relazioni che mi hanno qui preceduta in questa sede e che quindi mi hanno offerto anche numerosi elementi di riflessione. Apriamo, cioè io non posso chiaramente e non lo farò assolutamente, di esporre tutti questi aspetti, ma almeno uno in particolare. Apriamo il proemio al libro quarto delle eleganze, a cui è affidata una delle questioni più scottanti dell'umanesimo, cioè l'importanza data ai classici pagani nella formazione della cultura e come questa possa conciliarsi con una adesione autentica al cristianesimo, nel quale la retorica viene esplicitamente e compiutamente dimostrata come modus theologandi, in cui colpisce il tentativo umanistico di correlare retorica e indagine teologica, e sorprende l'antinomia tra l'amore delle lettere e il desiderio di Dio, che il libro di Jacques Leclerc illustrò in pagine dense e suggestive per il periodo medievale e che Mario Foïs ha trattato diffusamente nell'ambito della cultura umanistica. So bene che alcuni, soprattutto fra quanti si credono più santi e religiosi, oseranno riprendere il mio proposito e l'opera mia come indegni di un cristiano, perché esorto alla lettura di libri secolari. Queste sono le parole che aprono il proemio, proponendo fin dalle prime battute l'obiezione insorta, fin dalle origini del cristianesimo, l'abbiamo sentito, e che si era costantemente ripresentata lungo i secoli, della tradizione colta e devota delle comunità credenti. Radicale in antinomia tra lectio librorum secularium dei gentili, cultura specificamente cristiana. Opposizione irriducibile tra studium delle umane lettere e della classicità pagana e l'essere cristiano. Il topos tradizionale del sogno geronimiano è così ripreso dal fittizio interlocutore oppositore del Valla, insieme alla sentenza inappellabile e ineludibile emanata dal tribunale di Dio, Ciceronianus, non Christianus. Al pari di Girolamo, ogni credente dovrà decidersi per la scelta alternativa, non potest fidelis esse, et idem Tullianus. Ma se Gerolamo, per la sua lettura di Cicerone, fu condannato al supplizio della fustigazione e costretto al ripudio pratico e teorico del proprio ciceronianesimo, con la condanna e con lo stesso supplizio, non dovrebbero forse essere perseguiti e puniti anche coloro che coltivano e promuovono lo studio? Nella discussione il bando dei censori del Valla si concreta nell'esclusione degli scrittori eloquentes. Il veleno è infatti nell'eloquenza corruttrice. Ma è questo il primo punto importante per Lorenzo: escludere gli scrittori eloquenti significa escludere tutti i buoni scrittori. Dietro l'argomentazione c'è il concetto fondamentale che ogni dottrina è cieca senza la retorica. Nei classici, e specialmente in Cicerone, sapienza ed eloquenza vanno sempre unite. Condannare l'eloquenza significherebbe condannarli tutti, compresa la filosofia. Lorenzo non dubita che l'accusa di Ciceronianus rivolta a Girolamo si riferisca più alla lettura di Cicerone filosofo che di Cicerone oratore. Ma aggiunge, la condanna gli era stata rivolta per la lettura di Platone. Il riferimento al filosofo greco era in realtà la variante che la tradizione del testo geronimiano offriva al Valla, Plato, in luogo dell'originale Plautus, che le recenti edizioni hanno. Contrazione dovuta a dei meccanismi redazionali presente nella versione antica e vulgata. Però attenti, perché questa variante di Plato assume tale incidenza da risultare fortemente determinante nella linea di tutto il discorso valiano, poiché porta all'interpretazione della condanna come incriminazione specificamente antifilosofica, era quello a cui voleva arrivare Valla. Quindi la filosofia pagana può essere pericolosa per la fede e la dottrina cristiana, non l'eloquenza. E la retorica non può nuocere al cristianesimo più di quanto non gli nuociano le arti figurative e la musica. Anzi, da queste arti il culto cristiano ha tratto giovamento e ancora di più ne trarrà dall'eloquenza. E nella sua opera cristiana Girolamo è ottimo esempio. L'utilizzazione della letteratura greca e romana nella sua ricerca ermeneutica è di tale ampiezza e continuità che non può essere ricondotta ad una specie di sedimentazione dovuta unicamente alla sua prima formazione scolastica. Tutta la sua opera esegetica, vetero e neotestamentaria sta a testimoniare la costante riaffermazione della compossibilità della strumentazione organica della cultura pagana e della lettura filologica della Sacra Scrittura. Fatto questo di notevole rilevanza perché implicava evidentemente un continuo approfondimento e studio della cultura classica. E Girolamo non ha fatto altro che continuare un tracciato già segnato nel passato e rappresentato per Valla da Ilario, Ambrogio, Lattanzio, Basilio, Crisostomo. La ricerca teologica quindi non può sottrarsi alla problematica imposta dalle differenze strutturali delle due lingue che operano nella trasmissione redazionale delle scritture, tra la Vulgata Latina e la Veritas greca originaria. Problema di esegesi biblica che per il Valla rientrava nel più vasto contesto del rapporto tra le due letterature e le due culture e che troverà espressione puntuale sì nelle pagine introduttive della Collatio, ma sarà definito ancora meglio nella prefazione alla traduzione latina delle storie di Tucidide, in cui la traduzione è concepita come una specie di transferendi negoziatio, scambio, circolazione di produzione, mercatura usa. Nell'età dell'oro ogni bene era comune. Oggi è la traduzione che restituisce la comunione dei beni della mente. Comunicazione, commercium, con gli uomini. Comunione con Dio. Nullum cum Deo, nos latini commercium aberemus, nisi testamentum vetus ex ebreo, et novum ex greco foret traductum. La scrittura è quindi per Valla lo spazio ove il commercium cum Deo aveva le sue dimensioni originarie e il suo fondamento specifico. La fonte letteraria da cui derivava la problematica teologica, la quale per ciò stesso si poneva essenzialmente come indagine ermeneutica. Non è la letteratura classica che il cristiano deve rigettare, e Paolo di Tarso è un esempio di come l'eloquenza sia necessaria alla teologia. Perché ornare con la retorica le altre discipline e non usarla per ornare la casa di Dio? I teologi antichi, scrittori eloquenti, sembrano avalapi che succhiano i fiori di prati, anche lontani. Fabbricano il miele dolcissimo e la cera, un topos. I rozzi teologi recenti sembrano piuttosto delle formiche, le quali rubano il grano da posti vicini e lo nascondono nei loro buchi. Meglio militare in un esercito di api che guidare un esercito di formiche. A nessuno sfugge l'importanza di questo aggancio dell'umanesimo al di là della scolastica e di tutta la filosofia medievale alla cultura cristiana, latina e greca dei primi secoli dopo Cristo, dagli apostoli a Girolamo ad Agostino. Ma per quella cultura fu essenziale l'assimilazione del pensiero greco e latino, che finì per dare, attraverso il neoplatonismo, l'ossatura alla teologia cristiana. I testi devono essere affrontati nella loro realtà storica. Le carte degli antichi, i privilegi, devono essere sottoposte al vaglio di una critica demolitrice, per afferrarne il senso preciso, primitivo delle espressioni. E ridiscendendo alla valutazione originaria della parola, Valla intende determinarne la portata, l'intenzionalità, risalendo alle sorgenti del pensiero pensante che vi si incarna. Di qui la sua violenta critica di Aristotele, di Boezio, della Vulgata, della barbarie medievale. Di qui la sua indagine linguistica grammaticale, perché si tratta di ripresentare i termini nella loro funzione originaria. Solo così la parola riacquista il suo valore di comunicazione, di contatto fra gli uomini, e la filologia è la via ad intendere il pensiero, anche quello teologico. La filologia biblica, come la discussione giuridica, la nuova dialettica, la nuova morale umana, traggono il loro vigore da una profonda ansia religiosa, dal bisogno di un rinnovamento radicale. A questo punto sorge spontanea e naturale una domanda: ma Valla possedeva manoscritti della Bibbia? Codici con le opere di Gerolamo? Si sa ben poco sulle vicende dei libri usati dal Valla e sulla sorte della sua biblioteca personale. Sono finora emersi 5 codici con opere sue postillate da lui. 6 codici di autori classici, Erodoto, Quintiliano, Cicerone, Livio. Nessuna Bibbia per ora, forse emergerà a Perosa, che sta preparando l'edizione critica delle Ad Annotationes ad Novum Testamentum. Mentre maggiore fortuna tocca agli scritti di Girolamo. A qualche anno fa risale l'identificazione e quindi anche la successiva pubblicazione in Italia medievale umanistica del 1992, ma uscita recentemente, di alcune postille individuate ai margini di quel testimone che è stato nominato da Minestrina tra i più importanti della raccolta epistolare di Girolamo, il Vaticano Latino 355-356. Sono poche, 11 ne ha pubblicate il curatore. Ne posso aggiungere ancora 3 che sono riuscita a identificare all'interno delle altre postille. E sono di modesta rilevanza. Una cosa voglio sottolineare. In questo testo abbiamo la variante Plato, e non rispetto al Plautus, quindi è anche spiegabile eventualmente il testo che Valla può avere avuto tra le mani. Le altre sono un commento all'Epistola 18, l'Epistola a Isaia 6:1-19 sulla vocazione del profeta, altre all'Epistola 21 riferite in gran parte alla cosiddetta parabola del figlio al prodigo. In 4 casi vengono rilevati passi dal Nuovo Testamento riportati da Girolamo secondo la Vetus, e il Valla è sensibile all'esatta e univoca corrispondenza delle lingue in sede di trasmissione e lo annota almeno in un caso. Però nessuna di queste annotazioni è passata nella prima o nella seconda redazione della Collatio. Una sola è entrata nelle Eleganzie. Ora è possibile aggiungere qualcosa d'altro. 2 anni fa individuai un grosso codice contenente numerose opere di Girolamo, scritto al nord dell'Italia tra il 1430 e il 1440. È il periodo in cui il Valla, tra l'altro, scrive i libelli cosiddetti De libero arbitrio, De professione religiosorum, Donatio Constantini. Alcuni di questi scritti presentano ai margini annotazioni attribuibili con certezza alla mano di Lorenzo Valla, in particolare al Dialogus contra Pelagianus, all'Apologia contra Hieronymum di Rufino e alla Risposta di Girolamo a Rufino. Inoltre abbiamo la lettera ad Algasium e la lettera ad Epigna. Particolarmente interessanti sono le glosse e le note ai primi tre opuscoli, al primo dialogo in particolare, per la disquisizione sulla libertà umana, argomento principale dell'opuscolo valliano del De libero arbitrio, in cui impugna la ingiustificata separazione di prescienza e predestinazione divina, per il quale avevo individuato anni fa un cambio di redazione proprio in seguito alla lettura di scritti di Gerolamo. Ora ritrovo lo scritto. In particolare all'interno della dimostrazione che Dio non può non prevedere le cose che dovranno accadere, e lui inserisce questo periodo, dice: ora, per fondare quanto io ti ho affermato, dice al suo interlocutore, eccoti un auctoritas, e riferisce Girolamo al commento a Geremia. Vi risparmio le varie citazioni e rinvii che darò nella parte scritta. Ricordo solo che ho trovato corrispondenze, termine docibile, per esempio, ritorna qui controllato, l'espressione che diventa proverbiale in Valla del interior homo placet Dei non exterior, e poi anche per quanto riguarda la ripresa del termine villicus, che avevo appunto individuato come carente nella traduzione e nella versione. Ho recentemente al vaglio un altro manoscritto con il testo dell'Adversus Jovinianum e dell'epistola De Honorandis Parentibus pseudo geronimiana, con annotazioni che richiamano le caratteristiche della mano di Lorenzo Valla, soprattutto gli interessi specifici di Lorenzo Valla, la vita beata monastica, lui ha tutto il problema della vita attiva e vita contemplativa, contra pontifices, e quindi questo mi richiama. Ma alcuni aspetti grafici rispetto alla grafia valliana che finora noi conosciamo mi inducono per ora alla cautela. Comunque, eventualmente, dovessi propendere, cioè, o meglio, gli studi mi dovessero portare ad un'altra scelta, mi ricondurrebbero comunque alle usanze grafiche del suo carissimo amico, revisore di molti scritti di Lorenzo, cioè Giovanni Tortelli, il cooperatore e consulente del Papa Niccolò V, nel programma culturale che portò alla costituzione della Biblioteca Apostolica Vaticana, ma che in questo caso ci interessa perché fu il Papa che avviò soprattutto le traduzioni di moltissimi testi di padri, e Tortelli ha una parte in questo. Quindi, sia che le note appartengano a Valla, sia che le note appartengano a Tortelli, e in questo caso aggiungerei un esempio che ho già individuato con il De professione del lavoro comune dei due amici, mi pare che l'individuazione di questi due manoscritti, recensiores sì, e che come tali non daranno novità di rilievo ai fini della costituzione del testo, come dice Moreschini nella sua edizione al dialogo adverso contro i Pelagiani, e però mi pare preziosa per avviare l'indagine sugli ambienti umanistici in cui i libri, anche dei padri della Chiesa e non solo dei classici, sono circolati e penetrati, e coglierne quindi i modi attraverso i quali vengono assimilati. Voi me ne avete dato una grande prova, poi anche, cioè, di come in questo caso Gerolamo diventi un elemento da considerare, non soltanto quindi i classici, come si faceva per Valla, no? Cioè, riportiamo tutto a una circolazione soprattutto dei classici. E Valla è per molte ragioni al centro di questa operazione di sintesi tra cultura classica, cristiana e spirito nuovo. E lo aveva ben capito Erasmo, quando si trovò tra le mani il codice con le adnotaciones, per cui dopo alcune incertezze iniziali decise di lanciarsi nella pericolosa impresa della pubblicazione di un testo a cui si sentiva intellettualmente tanto vicino, e di scrivere la più accesa e sentita difesa del Valla, confutando e rigettando l'immagine vulgata dal Bracciolini, che nella sua accusa più superficiale aveva ridotto Valla a uomo provocatore, altezzoso, odioso, inviso a molti, tanto che, come sintetizza un epigramma fatto circolare alla morte dell'umanista, Plutone teme di spalancargli le porte degli inferi, perché non potrà più aprire bocca e parlare latino. Giove non osa accoglierlo nell'Olimpo, per non avere alle costole un critico tanto implacabile. A me, che secondo Bracciolini dovrei appartenere alla secta dei Vallenses, dei trasgressori, come sono state in questo momento del tempo a disposizione, spero verrà riservato il purgatorio per scontare la pena di aver abusato forse troppo della vostra pazienza. Grazie.